bisogna sempre vedere se questi annunci, che spesso mettono insieme vari provvedimenti e varie tipologie di raccolta finanziaria, raccolta fondi, si verificheranno, no? Perché ovviamente sono delle previsioni e anche ancora una volta in questo caso c'è sempre un'azione di ritrovare dei fondi subito e un'azione di liberare spazio fiscale per gli stati. E non tutti gli stati poi hanno spazio fiscale, parliamo proprio dell'Italia. Di certo è preoccupante che nella proposta che si legge in questa lettera, in questa indicazione di Von der Leyen prima del Consiglio di questo giovedì 6, non solo si parli, come si rumoreggiava da tempo e come hanno chiesto tanti governi, il nostro in primis, di allentare le regole del patto di stabilità e quindi permettere agli stati di spendere di più senza attivare le procedure sul debito, ma si parla addirittura di poter spostare i fondi di coesione europea, cioè i fondi che nel bilancio dell'Unione Europea, per gran parte del bilancio dell'Unione Europea, servono a fare interventi nei territori che sono più svantaggiati dal punto di vista economico. L'Italia, per esempio, ha avuto fondi di coesione spesso e volentieri per il Sud, ecco che si possono spostare questi fondi, che sono quindi non solo una socialità diretta, ma un modo appunto per tenere insieme l'Europa, e per questo si chiama di coesione, sulla spesa militare. Questo è qualcosa di cui si rumoreggiava, ma meno fortemente, ed è ancora più preoccupante, perché in quel caso non è solo che l'Unione Europea dice agli Stati potete sforare sul debito, ma che dice proprio i soldi che avete già messo a disposizione dell'Unione Europea, se volete ve li riprendete indietro, ma non per fare strade, interventi sull'ambiente, interventi, costruire ospedali nelle zone svantaggiate, ma per costruire armi. E questo ovviamente è molto preoccupante, non solo per la quantità di soldi che mobilita, ma proprio anche per il concetto stesso che ci sta dietro. Quindi l'Europa sceglie di fatto di sacrificare il proprio welfare per le armi? Assolutamente sì, questo è preoccupante sia per il concetto stesso di abbandonare l'idea di un percorso di un'Europa di pace che cerca di essere all'interno di un mondo sempre più in conflitto, sempre più in contrasto, sempre più militarizzato, una strada diversa, cioè di proporre un'idea diversa di coesistenza e che quindi porta a pacificazione, ma poi perché lo fa in maniera massiccia e andando a erodere quelli che sono gli strumenti che hanno permesso all'Unione Europea, comunque con tutti i suoi errori, comunque con tutti i suoi problemi, di vedersi come un unico attore. Qui in realtà ci sono delle critiche che possono essere mosse a questo piano, non solo dal punto di vista pacifista, cioè ovviamente stiamo comprando armi e non ci piace, ma anche proprio dal punto di vista strutturale, istituzionale, cioè si toglie la coesione dell'Europa e soprattutto lo si fa senza risolvere i nodi istituzionali anche dal punto di vista della politica estera e della politica della difesa. Ed è questo il vero problema. Se io fossi un militarista sarei preoccupato più di un pacifista di questo tipo di piano, che mette lì un sacco di soldi, li sprecherà, farà il vantaggio dell'industria militare e degli interessi finanziari che sta dietro, ma non aumenterà di niente fondamentalmente la capacità europea di intervenire, perché l'abbiamo visto anche in queste ore con il dibattito sull'Ucraina. Se poi Macron dice una cosa, il nuovo cancelliere tedesco dice un'altra, Meloni dice aspettiamo, andiamo con Trump e la Spagna straccheggia, cioè anche avere molti più soldi per le armi non servirà a metterle sul campo, non servirà a capire che tipo di politica. Solo che, diciamo, von der Leyen e tutti i falchi della spesa militare, questa cosa o non la capiscono o non gli interessa, perché i loro interessi sono altri, non sono nemmeno quelli di rendere più forte l'Europa dal punto di vista militare, ma sono solo quelli di fare gli interessi dell'industria delle armi. Esattamente una settimana fa l'osservatorio, diciamo quello di Cottarelli sulla spesa pubblica, ha pubblicato un'analisi in cui ha spiegato che nel 2024 i paesi europei appartenenti alla NATO hanno speso 730 miliardi proprio in armamenti. Di fatto così si andrebbe a raddoppiare quella spesa, perché appunto von der Leyen non ha detto di come dire, un affrancamento dalla NATO, ma in aggiunta. Esattamente. Il problema è anche quello, e ritorna qui la doppia problematica, sia quella di spesa, cioè di scegliere di provare a risolvere i problemi del mondo mettendoci più armi, cosa che non è mai successa nella storia, anzi, i periodi di riarmo poi ne hanno creati i problemi del mondo, lo vediamo negli ultimi anni, ma c'è anche il tema politico, cioè mancando quello che dicevo prima, cioè mancando un'idea anche di cosa farci con questi soldi, di chi li gestire, il problema è che si rimarrebbe all'interno anche di questa doppia scarpa, no? Cioè, quindi un'Europa che vuole diventare più forte, non si sa come, però rimane dentro nella NATO, che ha anche già una sua forza, una sua capacità ovviamente proattiva, e rimane poi ovviamente il nodo anche del rapporto con gli Stati Uniti. Qui non si capisce, perché in realtà è un gioco delle tre carte, fatemelo dire in questi termini. Gli Stati Uniti continuano a dire noi dobbiamo abbandonare l'Europa, gli europei devono difendersi da soli. In queste ore io sono a New York per la conferenza di Stati Parte del Trattato sulle armi nucleari, e su tutte le televisioni, CNN, eccetera, ci sono un sacco di senatori repubblicani che dicono l'Europa che si deve arrangiare. L'Europa dice questa cosa qua, ma nessuno, per esempio, allora parla delle basi americane, le basi NATO in Europa, cosa ne facciamo? Perché voglio dire, c'è questa dinamica. In realtà non è vero che gli Stati Uniti vorranno dismettersi dall'Europa, perché per loro l'Europa non è mai stata un luogo da proteggere, è stato un avamposto per il loro quadro imperiale, se sono, diciamo in quella maniera. Quindi ancora una volta non si affrontano i nodi veri che sono politici e si mettono solo soldi per l'industria militare. Questa è una grande operazione di speculazione ed è tristissimo che questa cosa si riesca a fare in poco tempo, quando invece in passato si è fatto molta fatica per cercare di trovare soldi sia a debito o direttamente per le spese sociali, che sono quelle che poi riguardano la vita di tutti noi.